24 mattino. Buongiorno da Laura Bettini, ben ritrovati per 24 mattino, è il momento della rassegna stampa, è già pronto qui accanto a noi Lionello Mancini. Io vi do appuntamento alle 8.15, il momento in cui sarà l'ospite di Radio 24 Daniele Fortini, amministratore delegato della ASIA, cioè l'azienda che si occupa dei rifiuti a Napoli. Ovviamente con lui approfondiremo la questione, quello che sta succedendo, quelle che sono le prospettive per Napoli, ma vi do anche appuntamento poi a Bianco o Nero, durante il quale oggi approfondiamo questo tema e vi invitiamo subito a votare sul nostro sito. Leonardo, allenatore dell'Inter, ha senso parlare di tradimenti sportivi oggigiorno? Lionello Mancini, e a più tardi. In primo piano. Buongiorno, un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cominciamo la lettura dei giornali, che oggi è una lettura che ci offre tantissimi spunti. Spero di avere davvero il tempo di darvene il più possibile. Vorrei cominciare proprio dal tema a cui accennava adesso Laura Bettini, e cioè il problema di Napoli. A Napoli sta montando l'attesa dopo le feste natalizie, per quello che potrebbe accadere a Capodanno. A Capodanno la questione dei rifiuti è una questione che sicuramente ha degli aspetti particolari. Da una parte aumentano certamente le quantità dei rifiuti, dall'altra, come osserva oggi la sindaco Russo Iervolino, c'è il problema dei roghi per Capodanno. Quindi a pagina 13 di Repubblica troviamo questo approfondimento: rifiuti, allarme, roghi per Capodanno. In campo la task force, gli ammassi saranno bagnati. Ecco, pensate, devono bagnare i rifiuti per evitare che vengano bruciati. Ieri automezzi distrutti e raccolta in tilt. Ecco, cominciamo proprio da questo tema della città di Napoli, perché poi passeremo invece alla città di Roma e poi leggeremo un brevissimo commento, ma piuttosto sapido, di Michele Serra proprio sulla questione dei rifiuti. Allora, pagina 13, a parte un grafico che illustra le tonnellate di rifiuti non raccolti a partire da novembre di quest'anno, e c'è un'intervista a Rosa Russo Iervolino. Ieri parlava il governatore della Campania, Caldoro, diceva che la colpa di questa situazione è certamente del comune, o meglio della sua azienda municipalizzata. Oggi in qualche modo la sindaco risponde. Il titolo dell'intervista: la colpa non è mia, Caldoro gioca col fuoco e non usa i suoi poteri. La Iervolino: smettiamola di aizzare chi assalta i camion. Sindaco, gli chiede l'intervistatore Dario Del Porto, dopo l'umiliazione delle feste natalizie la spazzatura è ancora in strada? È una fase drammatica, risponde la Iervolino. A Santa Maria Capo Avetere non ci hanno fatto scaricare e in questo momento tra Tufino e Caivano ci sono 45 camion in coda che non riescono a sversare. Eppure il premier Berlusconi aveva annunciato che la crisi sarebbe stata risolta in pochi giorni. Quelle erano dichiarazioni estemporanee, e non dico altro perché ho troppo rispetto per le istituzioni. Berlusconi ha dato la colpa a me per una crisi che riguarda tutta la provincia, ma posso capire che covi ancora ruggine verso chi nel 1994 spaccò il Partito Popolare portandolo a sinistra. Quindi la Iervolino rievoca anche vicende politiche passate. E comunque l'intervista prosegue, dice: secondo Caldoro però la crisi nasce dalla società ASIA, che è la municipalizzata appunto. Non ricambio le insolenze ma divento più combattiva. Caldoro dice bestialità quando sostiene che ASIA raccoglie rifiuti anche in provincia o che gestisce Giuliano e Tufino. A furia di addossare la colpa ad ASIA stiamo aizzando teppisti incappucciati come quelli che la notte scorsa hanno danneggiato i mezzi. Ma possibile, chiede ancora il giornalista, che le istituzioni sappiano solo rimpallarsi le responsabilità? Rispetto alle istituzioni, risponde la sindaco, non sono un ragazzino che è diventato presidente della regione. Durissima proprio. Ho fatto il ministro per 10 anni, ma bisogna ristabilire la verità. Le leggi cantano, basta applicarle. Ultima domanda, anche Capodanno sarà tra i rifiuti? Mi auguro con tutto il cuore di no, ma è difficile e c'è il problema dei fuochi d'artificio. Con i rifiuti nelle strade rischiamo la tragedia. Sensibilizzeremo la popolazione e innaffieremo preventivamente i cumuli. Questa dunque l'intervista a Rosa Russo Iervolino che troviamo sulla Repubblica di oggi. E su Napoli vorrei leggervi la maca di Michele Serra che ho trovato piuttosto divertente. Scrive Michele Serra: i rifiuti di Napoli occhieggiano dal video organizzati in cospicui filari. Artisti di strada dovrebbero provvedere ad addobbare quelle piccole cordigliere con luci e festoni. Dopotutto è Natale anche per le nostre deiezioni. Nei servizi televisivi di bilancio annuale spicca il volto gonfio del premier con gli occhi ridotti a due fessure come un Mao fatto in casa, un self-made Mao, che dichiara risolta l'emergenza entro pochi giorni. Se qualche domanda normale, scrive Serra, di quelle che esigono risposte normali, ancora ci riguardasse, dovremmo chiederci semplicemente com'è possibile che un così solenne bugiardo non si sia ancora dimesso, sepolto dalla sua raffica di frottole e di fallimenti. Insieme a lui il sindaco Iervolino, che con malinconica stupefazione sappiamo essere ancora in sella. A causa dell'interminabile monotonia di quell'emergenza, di quelle fetide immagini sempre uguali, ci pare che la povera Iervolino sia sindaco di Napoli da 10, 20, 100 anni. È un evo statico questo, tutto ci sembra refluo, anche ciò che è seminuovo o recente ci fa l'effetto del ritorno indigesto del borborigmo. Qualche faccia di studente nei giorni scorsi ci ha illuminato il palinsesto, facendo balenare l'idea che la vita continui, ma apparevano immagini dall'estero. Vi lascio alla pubblicità. In primo piano. Eccoci di nuovo in onda con la nostra rassegna stampa. Abbiamo parlato di Napoli e dei rifiuti di Napoli. Come vi dicevo, però, c'è anche una notizia che riguarda Roma. Io non so quanto sarà gradita, ma Roma stanga i turisti. E sapevamo di questo contributo alla città che era da applicare al prezzo degli alberghi, ma stiamo parlando di un'altra stangata, diversa. Roma stanga i turisti, arriva anche la tassa sui musei comunali, e cioè significa che praticamente chi andrà a visitare Roma e i musei romani, ma non è residente nella capitale, dovrà pagare di più. Scrive Gabriele Isman sulla Repubblica. Dal 2 gennaio nella capitale si inaugurano i prezzi differenziati nei musei per romani e non. È la tassa di soggiorno o contributo, come la chiama il vice sindaco Mario Cutrufo, che non colpirà soltanto gli alberghi ma anche i musei. Le tariffe erano state riviste a luglio per i residenti della capitale. A loro visitare l'Ara Pacis continuerà a costare 6,50 euro, mentre chi non potrà dimostrare con un documento di risiedere a Roma ne pagherà 7,50. Il macro di via Reggio Emilia di Testaccio, 10 euro per i romani, 11 per tutti gli altri. I musei capitolini e per i mercati di Traiano, in entrambi i casi 7,50 e 8,50, e così altri 18 musei civici gestiti dall'azienda Zetema. La novità scatterà domenica 2 gennaio. Secondo Alemanno, dice, vabbè, tanti turisti neanche se ne accorgono, un euro in più è un piccolo contributo, ma che alla fine varrà 82 milioni. Quindi questo vuol dire che hanno calcolato che ci sono 82 milioni di persone che ogni anno entrano in qualche museo municipale. Quindi Alemanno, che in questo periodo non se la sta passando benissimo, perché tra la parentopoli dell'ATAC, tra il neonazista assunto non si sa come che sproloquia contro gli ebrei, eccetera, eccetera, insomma è un po' nel mirino. Anche su questa vicenda delle tasse per i musei municipali da applicare a chi non è romano, interviene addirittura in qualche modo il governo, che è contrario. Mario Resca, super manager dei beni culturali, boccia l'iniziativa. Che sbaglio per la capitale, così punisce i suoi visitatori. Quindi Mario Resca, che è direttore generale per la valorizzazione dei beni culturali. e che commenta molto negativamente questa iniziativa. Dice, quindi gli chiede l'intervistatore, lei boccia quello che il Campidoglio definisce contributo di soggiorno? È un elemento non favorevole, risponde Resca, a quella che per il nostro paese è una fonte di ricchezza. Abbiamo la fortuna che nel 2010 i dati indicano un incremento dell'ingresso dei 450 musei italiani che supera il 16% in termini di visitatori. In termini di incassi siamo all'8,5%, quindi un business che va benissimo e che proprio per questo probabilmente il Comune di Roma ha pensato di sfruttare per raspare un po' di soldi. E quindi secondo Resca questa tassa differenziata, diciamo così, tra romani e non, significa, dice il dirigente dei beni culturali, significa mortificare i visitatori e mettere in cattiva luce la capitale, anche in termini mediatici. I comuni possono risolvere meglio i loro problemi. Dobbiamo coltivare la cultura dell'accoglienza e non lo stiamo facendo. Questo quindi Mario Resca. Ora dobbiamo uscire da questo tema delle città, ed è un peccato perché è un tema interessante, e purtroppo infilarci mani e piedi nel fango di fine anno. Il fango di fine anno è una dizione che trovo scritta sul giornale, il giornale di Sallusti, che apre la sua prima pagina con l'intervista a Luci Rosse che getta fango su Fini. Ecco cosa dice l'escort che sostiene di averlo incontrato, ma non ci sono testimoni, polemiche su un possibile falso attentato e su un patto segreto con i magistrati. Allora, la vicenda forse l'avrete orecchiata ieri, non è che sia così appassionante, perché i giornali diretti da Feltri, in cui ha lavorato anche Sallusti, eccetera, ci hanno un po' abituati in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, un'informazione, non dico gridata, ma proprio veramente molto aggressiva. Ieri Libero aveva pubblicato questo articolo di Belpietro e del suo quindi direttore, che diceva di aver saputo di un finto attentato che Fini si stava diciamo così in qualche modo preparando per gettare la responsabilità su Berlusconi, e anche di una escort modenese che sosteneva di essere stata per diverse volte con una persona che assomigliava in tutto e per tutto a Fini. Allora oggi il giornale, questo Libero, il giornale la riprende, diciamo, con un certo rilievo, a essere così un po' eufemistici, ci apre la prima pagina e poi dice: una escort prova a vendere un video in cui racconta: il presidente della Camera è stato con me 3 volte, pagava 2000 euro per ottenere il mio silenzio. Dopo i casi da Dario e Rubi, un'altra storia architettata per ricattare un uomo delle istituzioni. Piuttosto bizzarra questo accostamento tra questa vicenda e i casi da Dario e Rubi, che insomma architettati proprio non sembrano. Sul caso Rubi peraltro c'è ancora in corso un'inchiesta della magistratura. Questo tema ci obbliga a prendere anche a vedere che come prosegue Libero oggi su questa vicenda. E il titolo di apertura a tutta pagina di Libero, che vi ricordo ora è anche il giornale in cui è tornato Feltri, e dice: mentre Fini va al mare, i falliti attaccano Libero. Reazioni isteriche dei futuristi. I futuristi, lo ricorderete, sono i seguaci di Fini in Future Libertà, quindi futuristi. Reazioni isteriche dei futuristi all'articolo di Maurizio Belpietro, che ha riferito le voci di un probabile attentato al presidente della Camera. Il direttore è sentito dal procuratore Spataro, perché in effetti ieri sono mosse diverse procure, perché l'ipotesi di un attentato a Fini, o comunque quantomeno il fatto che qualcuno abbia raccontato di questa possibilità, ha fatto scattare diverse inchieste, e Maurizio Belpietro, il direttore di Libero, è stato ieri ascoltato dalla procura di Milano. Sempre su Libero ci sono 2 pagine riferite alla Calabria, tema su cui stiamo per tornare. Sentenza in ritardo 4 anni. Sentenza in ritardo 4 anni. Libero, killer della 'Ndrangheta. Alfano manda gli ispettori alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, motivazioni depositate fuori tempo massimo, scarcerato il sicario. Questo è l'articolo che riporta Libero. Nell'altra pagina, sempre con quello stile soft che contraddistingue il giornale di Belpietro, tragedia nel Vibonese, Calabria Saudita, massacrati padre e quattro figli, famiglia sterminata a colpi di fucile per un terreno, in serata si costituisce il vicino, gli inquirenti dicono aveva dei complici. Ecco, Calabria Saudita, se vogliamo fare un favore, diciamo così, all'unità del nostro paese e alla comprensione dei fenomeni, mi pare che questo qui non sia proprio il modo, ma questa è una mia opinione. Sulla Calabria e su questa vicenda, che ha sicuramente è una vicenda molto, come dire, molto grave, perché 5 persone uccise per una questione terriera, la riprendiamo dal Corriere della Sera. La sparatoria di Vibo, dice Antonio Gentile, che è un senatore del Popolo della Libertà, la sparatoria di Vibo dimostra che qui siamo nel Far West, chiediamo che i territori siano presidiati di più. Lite per la terra, sterminata famiglia di pastori, uccisi padre e quattro figli, si costituisce il proprietario di una masseria vicina e dice sono stato io. E qui riporta appunto la cronaca di questa vicenda. Sul tema, però, io ho trovato questo articolo scritto da Donato Carrisi, che è uno scrittore, per la verità, di origine pugliese, ma molto attento alle dinamiche sociali e anche, diciamo, psicosociali che attraversano il Mezzogiorno, la Calabria in particolare. E allora vi leggo qualche passaggio di questo articolo di Donato Carrisi sulla vicenda, per l'appunto, della strage di Vibo Valentia. In un certo sud la terra è padrona, sono gli uomini che le appartengono, non viceversa. Accatastata con i codici del sangue e dell'onore, germina un indissolubile retaggio, sancisce chi sei, da dove vieni, ciò che ti spetta. Tramanderai il tuo nome con essa, di padre in figlio. Senza terra non hai identità. Quelli che emigrano conservano sempre un potere, anche piccolo, perché altrimenti perderebbero il diritto di tornare, perfino da morti. I patti che la riguardano, che riguardano la terra quindi, sono fissati da una stretta di mano, occhi negli occhi, senza parole e senza carte bollate. Una compravendita pesa come un matrimonio. Ci si imparenta, ci si affilia. Per questo quando domandi la terra a qualcuno sai che ti legherai per sempre al suo nome e un diniego può pesare come uno sgarbo, un'offesa da vendicare. Certe faide non affondano le loro radici negli affari criminali, ma i motivi che le ispirano sono da ricercare nelle questioni di proprietà, difficili da dipanare. A volte passano intatte di generazione in generazione e chi le eredita magari non sa neanche perché sono cominciate. È una lezione che ti impartiscono da piccolo. Chi devi odiare? Così, insieme al valore di ciò che possiedi, impari a masticare un rancore antico e comprendi subito che quello con la terra è un cordone ombelicale che può essere tagliato solo con la morte violenta. Così anche un perfetto incensurato può diventare un assassino. Un tempo gli uomini combattevano per il possesso della terra. È difficile immaginare che lo spirito che li animava si rinnovi identico nel nuovo millennio. Eppure sono simili a piccole guerre, queste eterne liti che vedono contrapposti non eserciti, ma famiglie. Basta uno sguardo, una parola di troppo a volte per riattizzare i livori. Prosegue Donato Carrisi nell'analizzare questo fatto di Vibo Valentia. Ci si arma di contrabbando, si organizza il gruppo di fuoco, vengono coinvolti i parenti più stretti perché la decisione va condivisa. Le donne vestono il lutto da sempre perché portano addosso il presagio che certe questioni si risolveranno solo con uno o più funerali. Queste madri, queste mogli non sono ombre silenti. Il loro compito è di serbare nel grembo quel sentimento che fomenterà gli animi, che rafforzerà l'onore. è materia ancestrale, non è dato a tutti comprenderla. Si può morire per un capo di bestiame che sconfina o per una servitù di passaggio. Almeno questo penseranno quelli che non conoscono la regola non scritta che si cela dietro ogni gesto, ogni azione. Intanto la terra raccoglie i morti, come a Vibo Valentia. Bisogna uccidere tutti gli eredi maschi. Non basta un simbolico omicidio, è necessario uno sterminio. Senza maschi che lo possano tramandare, il nome di quella famiglia si perderà per sempre. Solo così la terra tornerà a essere libera di possedere altri uomini. Questo quindi l'analisi, ma più che un'analisi è veramente un pezzo di letteratura, è anche molto molto diciamo così competente su certe dinamiche sociali che caratterizzano la Calabria, dove si fa molto presto a dire che tutto è semplicemente 'ndrangheta e mafia, ma questi meccanismi ancestrali sono i meccanismi che spesso regolano la vita della stragrande maggioranza delle persone. Nella stessa pagina del Corriere troviamo anche la notizia che vi dicevo prima: sentenza scritta in 4 anni, ergastolano scarcerato. Il magistrato che avrebbe dovuto scrivere la sentenza era già stato colpito da sanzioni per colpa dei ritardi. Alfano manda un'ispezione. Vi lascio, è ora del traffico, certamente. In primo piano. Stavamo leggendo il Corriere della Sera e questa bellissima analisi di Donato Carrisi sulla strage per un appezzamento di terreno avvenuta a Vibo Valentia. Restiamo al Corriere della Sera, che a differenza di ogni altro giornale apre sulla vicenda del generale Ganzer. Il caso Ganzer scuote l'arma. Le motivazioni della condanna a 14 anni per il comandante del ROS dei Carabinieri. I giudici, il generale si accordò con i narcos per avere successo. La condanna è di alcuni mesi fa, ma a differenza di Reggio Calabria, per l'appunto qui la motivazione è uscita nei tempi previsti, e quindi le 1000 oltre pagine di motivazione sono un atto d'accusa durissimo contro il generale che comanda per l'appunto il raggruppamento operativo speciale, il ROS dei Carabinieri. E il Corriere della Sera, che dà ampio spazio alle motivazioni di questa sentenza con un articolo molto approfondito di Luigi Ferrarella, porta anche un corsivo di Antonio Macaluso che si intitola Il gesto responsabile e opportuno. Il gesto responsabile e opportuno, che si riferisce Macaluso in questo articolo che ora non leggiamo, perché comunque il senso è assolutamente questo, cioè è vero che è una sentenza di primo grado, ma la durezza delle motivazioni è tale per cui forse sarebbe un gesto responsabile e anche opportuno che il generale facesse un passo indietro dalla posizione delicatissima che ricopre, appunto, di comandante dei ROS. Restiamo alla cronaca. Bomba all'ambasciata, non è esplosa per un caso, l'avrete sentita nei giornali radio, nei telegiornali di ieri. Recapitata alla sede greca con un pacco, l'innesco era difettoso, paura negli uffici diplomatici. Si cercano legami più che altro con gli ambienti anarchici, quindi come vedete nel mondo del terrore, mentre si guarda da una parte, il problema, il pericolo viene fuori dall'altra. Ancora il Corriere della Sera dedica 2 pagine, la 14 e la 15, all'opposizione politica. In una pagina, nel PD si è già rotta la tregua interna, Bersani spiazzato dal no del terzo polo e Veltroni prepara il nuovo correntone. Ed è appunto una grossa apertura di pagina dedicata al Partito Democratico, ma addirittura una pagina intera, la 15, è dedicata all'Italia dei Valori. Italia dei Valori che dopo aver tenuto in piedi, dopo aver partorito, dopo aver portato in Parlamento le persone che hanno tenuto in piedi il governo Berlusconi nel voto del 14 dicembre, e sta passando un momento di grossi mal di pancia. Paolo Flores d'Arcais, per esempio, dice che Di Pietro preferisce cancellare la realtà come farebbero i media berlusconiani. Pensate che uno che accusa Di Pietro di essere come Berlusconi, cioè sembra quasi incredibile. Sondaggio anti-IDV taroccato l'iter lite flores d'arcais di Pietro. Il filosofo: hai ordinato di negare i problemi. La replica: è falso, dice Di Pietro a Flores Arcai, sei superbo. E poi c'è Mura, sempre dell'Italia dei Valori: era in gioco l'immagine del partito e i militanti si sono mobilitati, lì è stato bloccato il sondaggio. E poi c'è un'intervista sempre di del direttore di Micromega, Flores Arcais, che dice: Di Pietro convochi un congresso Big Bang per fare pulizia, riferendosi probabilmente a una sorta di rifondazione del partito. Il giudizio di Flores d'Arcais su Di Pietro è durissimo: l'ex PM predica bene e razzola male. A livello locale il suo gruppo dirigente è mastelliano come Berlusconi. Insomma, non si risparmiano gli insulti. Un ultimo velocissimo salto a pagina 31 del Corriere, perché c'è il manager giocoliere che assume con Facebook. Così pesco i giovani, dice Pierre Lei, nato 44 anni fa a Gemonio, che è il paesino di Bossi. Il manager ha ideato la caccia ai giovani dirigenti su Facebook e viene riportata la pagina web della Whirlpool, perché poi di questa azienda stiamo parlando, che cerca i dirigenti su Facebook. E questo è una novità, perché secondo questo manager, in questo modo diciamo si va da una certa età in giù, mentre invece negli Stati Uniti spia le email della moglie, incriminato come hacker. La legge negli Stati Uniti fa poche eccezioni, e infatti chi per una ragione magari così non proprio degnissima ma sentimentale spia l'email della moglie viene condannato come hacker. Sul Sole 24 Ore invece scegliamo di dare qualche notizia, qualche informazione su un tema che hanno tutti gli altri giornali e che siccome è piuttosto complicato, mi pare che il pezzo del Sole 24 Ore sia molto esaustivo, mezza pagina dedicato a Khodorkovsky, che è l'ex patron della Yukos, giudicato colpevole di furto e riciclaggio con il socio Lebedev, rischia altri 6 anni di carcere. Nuova condanna per Khodorkovsky, critiche di Stati Uniti e Unione Europea, Hillary Clinton, verdetto negativo per la Russia. Qual è il problema? Vi leggo alcuni pezzi di alcuni brani di Vladimir Sapochnikov, sperando di darvi una luce su questo tema. L'ex patron della compagnia petrolifera Yukos, Mikhail Khodorkovsky, e il suo socio sono stati giudicati colpevoli nel loro secondo processo durato 22 mesi per il furto di milioni di tonnellate di petrolio e per il riciclaggio di denaro sottratto al fisco. Centinaia di persone, tra sostenitori dei partiti di opposizione e attivisti per la tutela dei diritti umani, hanno manifestato in segno di protesta davanti al tribunale del distretto Kamovny, non lo so leggere, insomma un distretto di Mosca. Decine di persone sono state fermate. Uno dei leader del movimento democratico Solidarnost ha dichiarato che la condanna significa calpestare le leggi, i diritti umani e la Costituzione. In pratica la storia di questo giovane manager è la storia che viene raccontata dagli osservatori e da cui anche avete sentito prima, citavo le critiche di Stati Uniti e Unione Europea, perché Khodorkovsky sarebbe perseguitato attraverso i processi in quanto oppositore di Putin. Gli inizi, vediamo la scheda del Sole 24 Ore, che come dicevo è molto chiara. Mikhail Khodorkovsky nasce a Mosca nel 63 da una famiglia ebraica di ingegneri. Dopo una laurea in chimica in uno dei più prestigiosi atenei dell'ex Unione Sovietica, inizia la sua scalata al potere facendo carriera nel Komsol, l'organizzazione giovanile comunista, fino a che a soli 32 anni, grazie alle numerose commesse governative ottenute alla guida della società Menatep, Khodorkovsky fa il grande salto. Acquista il gigante petrolifero Yukos, che grazie ai contatti governativi gli costa solo 300 milioni di dollari, invece dei 10 miliardi di valore raggiunti dalla compagnia pochi anni dopo. Soldi, potere e visibilità trasformano Khodorkovsky in uno degli uomini più ricchi della Russia. Con la moglie e i 4 figli vive in una residenza fortezza nei pressi di Mosca. In luglio 2003, in una stanza di ospedale, viene arrestato Platon Lebedev, il vice di Khodorkovsky. È un chiaro segnale all'industriale, che gli dice: vattene, sei troppo indipendente, è meglio che lasci il paese. Ma Khodorkovsky resta e si era attirato l'antipatia dell'allora presidente Vladimir Putin, che vedeva in lui l'erede più potente dei nuovi oligarchi di Yeltsin degli anni 90. Pochi giorni dopo l'arresto di Lebedev, il 9 luglio, la magistratura apre un'inchiesta per frode ed evasione fiscale contro la IUCOS e i suoi uffici vengono perquisiti. Il 25 ottobre i servizi segreti arrestano Khodorkovsky, bloccando il suo jet privato nell'aeroporto di Novosibirsk in Siberia, e lo rinchiudono in carcere. Lo accusano di aver evaso fisco per 5 miliardi, stava per finire il suo periodo di condanna di 8 anni, stava per poter chiedere la libertà vigilata, ma un secondo processo lo riporta a Mosca con nuove accuse di furto di 218 milioni di tonnellate di petrolio, cioè tutto quanto la IUCOS ha prodotto dal 98 al 2003. Questa dunque è la Russia in questo momento, e questo è quello che da noi si parla spesso, ma in termini forse un po' troppo così onirici, questo è diciamo la politica fatta attraverso le condanne e attraverso la magistratura. Io con questo vi devo lasciare, vi do appuntamento a domani mattina e lascio la linea al giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Le 8 e 19 minuti, ben ritrovati, buona giornata da Laura Bettini. L'intervista, parliamo tra pochissimo con Daniele Fortini, amministratore delegato di Asia, l'azienda che per il Comune di Napoli si occupa della raccolta dei rifiuti. Vi ricordo però anche il nostro sondaggio, il tema di bianco o nero della giornata. Leonardo, allenatore dell'Inter, ha senso parlare di tradimenti sportivi? Potete votare già da adesso sul nostro sito internet e poi ne parliamo a partire dalle 8:30. Daniele Fortini, buongiorno. Buongiorno. A Napoli 2-6 da 36 milioni ciascuno fanno 72 milioni, li ha vinti mica l'Asia? Magari. Una raccolta differenziata del 100% in una settimana. Lo so, perché 72 milioni di euro fanno, e mi diceva proprio la settimana scorsa, ne avreste bisogno di questa cifra precisa per implementare e portare a regime la raccolta differenziata a Napoli. Erano 48 milioni per gli impianti, 24 all'anno per la gestione, quindi la vincita del Superenalotto. Esattamente. Confidiamo però nel buon cuore delle istituzioni e delle amministrazioni locali per avere risorse utili comunque a migliorare. Speriamo. Siamo felici per due concittadini che ovviamente avranno un anno prossimo migliore. Ah beh, questo senz'altro, hanno cominciato a festeggiare già da ieri sera l'anno nuovo, se sentite dei botti sono da loro. Leggo invece dalle agenzie di stampa ANSA, ma anche dai quotidiani di oggi, l'avrete sentito in rassegna stampa, gli ascoltatori l'avranno sentito nella rassegna stampa, che l'Asia è sotto attacco non solo da parte dei cittadini, ma in queste ore è la regione un po' che si scaglia contro di voi. Leggo qualche dichiarazione giusto per far capire. L'assessore all'ambiente della regione Campania, Giovanni Romano: la città di Napoli è priva di un sistema serio di raccolta differenziata, incapace di sfruttare i finanziamenti che, pur tra mille difficoltà, la regione ha assicurato allo sviluppo del progetto comunale. Poi il governatore Caldoro ancora: la partecipata del comune non può pensare da sola di gestire tutto e cose non sue, il problema è sempre nato dall'incapacità della partecipata di rispondere. Come risponde, per l'appunto? Ma guardi, questi attacchi della regione sono francamente incomprensibili, perché noi abbiamo sempre collaborato con la regione, sia con la vecchia amministrazione che con la nuova. Certo, gli sforzi a Napoli sono difficili da farsi per una serie di ragioni tecniche, oltre che sociali, urbanistiche. I progressi della raccolta differenziata sono sempre stentati. Tuttavia Napoli ha il 19% di raccolta differenziata, quando in tutto l'Interland, dove risiedono 2 milioni di abitanti, è al 5%, cioè un quarto di quello che riusciamo a fare a Napoli. Napoli però è la capitale del Mezzogiorno, quindi attira ogni considerazione, probabilmente è giusto che sia così, le sollecitazioni in qualche modo noi le accogliamo. Il problema vero è che la Regione non è vero che ha dato soldi, noi non abbiamo avuto neanche un centesimo negli ultimi 4 anni dalla Regione Campania. Non basta fare una delibera dicendo darò 2 milioni di euro al Comune di Napoli per dire che li ha dati, e poi li devi mettere materialmente in condizione di essere utilizzati. E lei dice non ci sono, questi non sono mai arrivati. Non sono mai arrivati, c'è una delibera che è del 2008 che prevedeva per il Comune di Napoli 8.250.000 euro per lo sviluppo delle raccolte differenziate, è del 2008, siamo nel 2010, ormai finito, e non abbiamo visto neanche un centesimo, ma neanche un centesimo dalla provincia, neanche un centesimo dal governo. Abbiamo fatto tutto con le vostre risorse, ovviamente con le risorse che arrivano dai cittadini, che hanno uno dei costi più alti per lo smaltimento della spazzatura, ma anche proprio per i problemi che ci sono. Ma sì, veda, noi nell'anno 2010 abbiamo fatto da banca alla neonata società provinciale che non aveva un soldo. Abbiamo cioè pagato noi per 11 milioni di euro il funzionamento degli impianti di tritovagliatura, che sono di competenza della provincia, ma la provincia non aveva soldi, abbiamo dovuto pagare noi gli stipendi e il funzionamento di quegli impianti. Se avessimo avuto quelle risorse disponibili, nostre, per la raccolta differenziata, oggi parleremo di Napoli al 30% di raccolta differenziata. Invece abbiamo fatto la banca per chi i soldi non li aveva e adesso ci troviamo, come dire, zoppi e bastonati. Però comunque gli impianti, i luoghi per lo smaltimento, le scariche, comunque sareste in difficoltà ad averli. Beh, guardi, in Campania ci sono in questo momento 4 discariche funzionanti che possono accogliere 1.200.000 tonnellate di rifiuti. Io non capisco francamente perché si debba andare con 50.000 tonnellate in Puglia, 40.000 tonnellate fra Lazio, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna ed altre 60.000 in Spagna ed altre 80.000 nei paesi scandinavi. Ma se abbiamo la disponibilità per 1 milione di tonnellate disponibili in impianti pubblici della Regione Campania, perché dobbiamo andare a inondare tutta l'Europa? Me lo dica lei però, perché andate fino là? Non vi vogliono in Regione? Perché non c'è un coordinamento, una programmazione, una pianificazione e un'azione diplomatica efficace tale per cui i rifiuti prodotti dai campani possono restare in Campania. Devono andare dovunque, ma non possono andare a Caserta, non possono andare a Benevento, non possono andare ad Avellino. Ed è l'unica regione al mondo che ha questo tipo di sistema così provincializzato, cioè frastagliato e autarchico, per cui ogni provincia pensa solo per sé e nega la solidarietà. Ma le altre province sono autosufficienti in tutto? Non vanno in Puglia, non vanno... Grazie soprattutto a un fatto che hanno le discariche e possono usare il termovalorizzatore di Acerra, per cui i loro rifiuti, al netto della raccolta differenziata, vengono tritovagliati negli impianti cosiddetti STIR e la parte secca va ad Acerra e la parte umida va nelle discariche. Invece la provincia di Napoli discariche non ne ha e quindi gli STIR sono in affanno, si congestionano perché non riescono a collocare il materiale umido lavorato. Del quale si pensa appunto di mandarlo in Spagna, di mandarlo in Puglia, di mandarlo in Toscana, ma non qui, e questo francamente è inspiegabile. E forse è questa critica che irrita un po' la Regione Campania, e la risposta è sì, ma voi siete sporchi e brutti, insomma. Non mi sembra una risposta adeguata. Senta, più di una volta lei in queste ultime settimane, queste della crisi più forte, perché si avvicinava sia il Natale che adesso il Capodanno, ha ricordato insomma che secondo lei c'è uno scontro di poteri, di politica, che però insomma qui non si risolve per i prossimi 3 mesi. Allora ci dobbiamo aspettare per 3 mesi ancora di vedere Napoli, la capitale del sud, come lei più volte ha detto, in queste condizioni? Ma guardi, io temo che bisogna aspettarselo per più di 3 mesi. Perché, anche oltre le elezioni, dice? Beh, guardi, tutta la, chiamiamola pianificazione non è, perché uno non pianifica di portare i rifiuti all'estero, chiaramente, no? Uno pianifica sul proprio territorio la soluzione dei problemi, altrimenti fa un'altra cosa, fa il trasportatore, fa un altro tipo di mestiere. Ma tutto quello che si sta facendo adesso ha come target 100 giorni. Cioè per 100 giorni porteremo i rifiuti in Puglia, per 100 giorni. E dopo il problema è che noi fra 100 giorni avremo la chiusura di Chiaiano, che è la discarica, che è il vero polmone che fa respirare Napoli, dove vanno 800 delle 1.200 tonnellate al giorno prodotte dai cittadini non differenziate del comune di Napoli. E quando chiuderà Chiaiano a marzo del 2011, cosa accadrà? E il programma che adesso viene fatto evacuare all'estero o comunque fuori dalla regione questi rifiuti sarà esaurito, perché appunto la solidarietà di queste regioni terminerà nel mese di marzo. Cosa accadrà? Senta, le chiedo un'ultima cosa per curiosità. Lei quando si trova nel suo ufficio lì all'Asia, alza il telefono, chiama la provincia di fianco, si sente rispondere decisamente no, qui non ci portate niente? Beh, guardi, purtroppo non funziona così, magari. Noi riceviamo alle 8 di sera, alle 8 e mezza, alle 9 della sera, riceviamo un dispaccio, così chiamato dispositivo, dall'ufficio flussi della regione che ci dice portate 4 camion a Santa Maria Capua Vetere, poi 3 camion a Tufino, 2 camion a Caserta, poi magari dopo mezz'ora arriva un controordine, no, i camion a Chiaiano sono 8, 2 portateli invece a Benevento. È così che funziona, cioè in un modo è così strampalato. Che adesso, è strampalato e poi alla fine questi camion vengono anche assaltati, questo poi è un altro esatto. Novità delle ultime ore, degli ultimi giorni, speriamo non accada più. Daniele Fortini, prego. Permetta, noi abbiamo perduto 11 autocarri, 11 compattatori di grande portata, con un danno di 1,5 milioni di euro nella battaglia di Terzigno, con 5 nostri autisti ricoverati in ospedale con prognosi superiore a 20 giorni. L'altra notte abbiamo avuto 11 mezzi danneggiati con le gomme squarciate, i parabrezza spaccati a Chiaiano. Sono altri soldi oltre al rischio per le persone. Grazie Daniele Fortini, amministratore delegato di Asia, e buon lavoro, buon anno per quanto possibile a tutti i napoletani. Grazie. Buon anno. 24 mattino. Le 8 e 33 minuti, sentiamo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E volevo sapere da Gianni, che ha 12 anni, perché squadra tifa? Milan. Allora, da milanista mi devi dare un commento al passaggio di Leonardo dal Milan all'Inter, proprio la vigilia di Natale. È uno stronzo. Perfetto, Gianni, a posto così, direi di passare oltre, buon Natale. A posto così, Leonardo, allenatore dell'Inter, ha senso parlare di tradimenti sportivi? Questo vi chiediamo oggi a Bianco o Nero, vi ricordo il numero per contattarci, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, il nostro sito internet radio24.it per votare il sondaggio. Dario Nicolini, giornalista Sky, autore di questa cliccatissima intervista ormai su YouTube. Lo sai che questa di Gianni, 13 anni, e il suo commento su Leonardo è una delle più viste? Buongiorno a tutti. Sì, effettivamente sono stato abbondantemente informato da colleghi, amici e quant'altro, via SMS, ma non soltanto, insomma, con telefonate e tutto il resto, quindi effettivamente sono stato molto sei diventato informato. Famosissimo grazie a Gianni. Gianni non può intervenire in radio, quindi intervieni tu e ci racconti un po' l'imbarazzo che hai avuto nel momento in cui il bambino ha avuto questo giudizio categorico, no, su Leonardo. Sì, definiamolo esattamente categorico. Sì, no, chiaramente eravamo eravamo in un cinema a Pruzzello, provincia di Milano. Non mi aspettavo chiaramente una reazione del genere. C'era lì un gruppetto di ragazzi che aspettavano di intervenire, ma insomma aspettavano nel senso che proprio 2 minuti prima ho raccolto qualche persona per sentire un po' i commenti, ma soprattutto sul discorso cinema, come avevano passato il Natale e tutto. Poi ho visto Gianni, che tra l'altro è il primo ad essere intervenuto, dopo la cosa in realtà è andata molto avanti, io poi sono andato a vedere cosa è stato tagliato su YouTube, è stato tagliato il primo minuto, poi è andata avanti, ci abbiamo anche ovviamente scherzato un po' sopra, e devo dire che niente, poi è venuto automatico, siccome siamo Sky Sport 24 e trattiamo di sport, e 24 ore prima c'era stato il passaggio, appunto la firma ufficiale di Leonardo per un anno e mezzo all'Inter, chiaramente gli ho chiesto che tifoso di che squadra era, tifoso milanista, gli ho chiesto un commento. Devo dire che non solo per il discorso del bambino di 12 anni non mi aspettavo una reazione così forte, probabilmente quello che poi è scaturito su YouTube è stata la conseguenza del fatto che è stato tutto, un tormentone nato da questo. Ridere. Certo, fa ridere anche perché appunto si capisce che tu non ti aspettavi una risposta di questo genere, ma poi dopo anche perché dimostra probabilmente un sentimento che c'è un po' diffuso su questo passaggio dal Milan all'Inter, non ti pare? Sì, mi pare proprio. In realtà, se posso partecipare indirettamente al vostro sondaggio, probabilmente anzi sicuramente dal punto di vista degli sportivi, ma soprattutto dei tifosi, il tradimento sportivo c'è, come ne abbiamo avuti tantissimi esempi. Io penso che uno dei più eclatanti, ma insomma anche uno dei più recenti, è stata l'ipotesi che Wayne Rooney, attaccante del Manchester United, potesse lasciare lo United e addirittura potesse approvare il Manchester City, che è l'altra squadra di Manchester. Nella civilissima Inghilterra è successo il pandemonio solo pochissime settimane fa, tanto che poi, a parte chiaramente Wayne Rooney ha scelto di rimanere allo United, ma non credo soltanto, o non credo per questo tipo di motivo, ma comunque è uscito pubblicamente, insomma, a calmare la gente, perché chiaramente stavano impazzendo. Quindi succede in Italia. Certo, tutto il mondo è paese in queste cose, tutto il mondo è paese. Dario Nicolini, grazie per essere stato con noi, per esserti svegliato presto, per poter rispondere anche tu al nostro sondaggio. A voi, grazie. Numero verde 800 24 00 24 e diamo il benvenuto agli altri ospiti di questa puntata. Evaristo Beccalossi, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. E con noi anche Filippo Galli, buongiorno anche a te. Buongiorno, ciao a tutti. Abbiamo ciao. un colpo. Com'è la mattina? Non sono abituato ad intervenire così presto. Lo so che tu ti svegli qualche perché ora, invece no, Filippo Galli si sveglia un po' presto rispetto... Sì, grande Filippo. Insomma, la mattina vi porta consiglio, che ne dite voi di questo nostro sondaggio? Filippo? Tu che l'hai vissuto da vicino, Leonardo, come... Sì, vabbè, a dire la verità io non è che conosca Leonardo benissimo, perché quando io ho lavorato nella primavera nel centro giovanile del Milan, poi sono passato alla prima squadra e Leonardo sì, lavorava come dirigente, però i contatti non sono stati così frequenti. È difficile dare un giudizio, però insomma io credo che si va sempre di più verso un calcio che è fatto meno di appartenenza, no? E quindi, cioè, ai giocatori che passano da una squadra all'altra anche così vicine siamo già abituati. È chiaro che per i milanisti questo può essere considerato uno sgarbo tra virgolette, però io credo che davvero questa fosse per Leonardo una opportunità importante ed è giusto che lui lo abbia presa, abbia accettato questa sfida. Io credo che lui abbia poi davvero le qualità per riuscire, perché lui ha una delle sue grandi qualità, credo, almeno dal mio punto di vista, è quella davvero di sapere arrivare agli uomini, alla gente, in questo caso ai giocatori, e quindi davvero forse è la persona che è giusta per questo tipo di, per questo momento che sta vivendo, vivendo l'Inter. Ecco. Filippo, non abbiamo detto, Filippo Galli, direttore del settore giovanile del Milan, andresti a dirigere il settore giovanile dell'Inter? Preso così alla sprovvista? No. Direi che qualcosa di simile ci dirà Evaristo Beccalossi, vero? No, però ti faccio io una domanda, Filippo. E 5 milioni di euro all'anno dirigereste il settore giovanile dell'Inter? No, ma non è una questione di... Non è questione di soldi? Una battuta. No, ma la penso così. Cioè, nel senso che chi nasce, cioè Filippo è un uomo Milan da una vita. Credo che Leonardo sì, ha una storia col Milan, però è stato anche un giramondo. E è un personaggio che col calcio di oggi insomma lo puoi collocare in qualsiasi situazione, anche se ha avuto delle esperienze forti con Milan. Io mi aspetto che faccia grandi cose, non ho nessun tipo di prevenzione, anzi sono sicuro che farà ritornare la nostra squadra a cercare appunto di fare questa rincorsa sul Milan. Io non andrei mai al Milan comunque, no? Evaristo l'ha detto più di una volta. No, io no, mai e poi mai. Ma un'altra squadra che non fosse il Milan l'avrebbe presa in considerazione? Ma io sì, io ho fatto i miei anni migliori, insomma i 7 anni all'Inter sono stati determinanti, ma poi dopo quando vai anche in altre squadre, quando tocchi il cielo diventa dura poi provare altre sensazioni. Diventa un lavoro, ci vai, però cambia le cose. Ma non c'è più niente oggi che sarebbe, e lo chiedo a tutti e due, da considerarsi un tradimento? Cioè un Totti che passa alla Lazio? È un vero tradimento oppure manco quello? Ma io credo che neanche Totti possa mai prendere in considerazione il fatto di passare alla Lazio. Come diceva Evaristo, credo che poi sia sempre una questione personale, soggettiva, di coscienza, insomma, se vogliamo. Ecco. Però ci sono giocatori che hanno... ha avuto una certa storia, un trascorso rossonero in questo caso. Io ad esempio mi viene in mente Baresi, mi può venire in mente Van Basten, lo stesso Maldini. Ecco, mi sembra davvero difficilissimo, che è impossibile che possano, ecco, attraversare, come si dice, il naviglio, così come ha detto Evaristo, che per tutti la coscienza che è popolare davvero è interista, insomma, ecco, penso che neanche si possa prendere in considerazione un evento del genere. Quindi poi, c'è la squadra che... chiamarlo tradimento, poi non lo so, non aspetta a me dare questo... Diciamo che c'è una squadra del cuore, degli affetti con la quale uno cresce, che magari è impossibile da lasciare, per altri questo non c'è e quindi si riesce... Ma sì, ma fa parte della storia di ognuno, è chiaro. Io, ad esempio, sono sempre stato milanista anche da piccolo come tifoso, poi ho avuto la fortuna di entrare nel settore giovanile, di giocare nella prima squadra, Di lavorare per il settore giovanile, per la prima squadra, quindi non so come dire, mi sembra impossibile, però ecco, sicuramente non è come cambiare la fidanzatina, poi, insomma, ovviamente nella vita le opportunità, come dicevo prima, professionali ci possono essere, si spera che possano essere tante, quindi è chiaro che si può cambiare anche società, ecco, ma l'Inter dal mio punto di vista no, ecco. Vabbè, vediamo, tra qualche anno torniamo. Teniamo tutto sotto controllo e poi vediamo se... Assolutamente. Quindi non è una questione di soldi, bisogna agire sul cuore di Filippo Galli, semmai, non ma di sì, soldi. Ma assolutamente, ma anche Leonardo, per Leonardo non è stata una questione di soldi, è stata una questione credo di sfida personale, di volersi rimettere in gioco. Lui il Milan l'ha allenato, ha fatto credo benissimo, perché con la squadra che aveva è riuscito a ottenere un risultato importante, quella della qualificazione in Champions League, e quindi ha questa grande, ripeto, grande opportunità. Poi lui è una persona intelligente, conosce le sue qualità, conosce i suoi limiti e saprà avvalersi di persone che gli staranno vicino, che lo aiuteranno per ottenere il massimo della situazione in cui si è andato a calare, perché ripeto, l'Inter adesso deve rilanciarsi, anche se ha vinto un campionato del mondo per club, deve recuperare punti in campionato. Credo davvero sia la persona giusta. L'allenatore che cita Gandhi, un po' tutti ricordano poi la sua tecnica del sorriso, l'abbraccio e così via, insomma, ottenere le cose in un modo diverso probabilmente da come le otteneva Mourinho e come non le ha ottenute Benitez. Evaristo Beccalossi, sì. Abbiamo in collegamento con noi anche Ilario Castagnier, vero? Sì, ci sono, sì, buongiorno. Buongiorno, mi rassicuravo, buongiorno, che ci foste buongiorno. Tutti, buongiorno. Mi rassicuravo. Buongiorno tra di voi. Ilario Castagnier, una situazione simile la sua nel passato a quella che sta per vivere Leonardo. Come fu essere accolti, come fu essere accolti all'Inter? No, io credo che sia un po' diversa la mia storia, perché io... ero al Milan, stavo bene al Milan, ruppi con Farina per problemi di organizzazione di squadra, perché io, per dirla chiaramente, avevo una squadra che arrivava sul fondo 20 volte per partita e volevo tenere Aldo Serena. A Farina Serena non piaceva e cominciammo da lì a rompere, no? Per cui a un certo punto poi... la rottura era completa, perché io seppi che Farina aveva interpellato un altro mio collega allenatore, e quindi sapevo che le cose non potevano andare avanti. Ebbi la proposta dall'Inter e l'accettai al volo. Cioè, io su Leonardo ritengo che sia completamente diverso, perché lui è un professionista che ha ormai rotto con... ha finito il suo rapporto con il Milan, è un professionista che in questo momento non ha lavoro. È come un manager, insomma, delle grandi aziende, che può passare dall'una all'altra. Sì, secondo... ecco, noi possiamo dirgli tutto, Leonardo, ma diciamo meno che traditori. Cioè, possiamo solamente dirgli che è un allenatore fortunato, perché in genere gli allenatori fanno gavetta, vi devono vincere per arrivare. E lui è partito in subito in quarta, lui invece. È partito subito col Milan e il secondo anno con l'Inter. Ecco, possiamo solo dirgli che è fortunato. Sì, che è la prossima, non lo so, la nazionale mondiale. Facciamo un'interruzione per la viabilità, torniamo subito dopo. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Oggi avremmo dovuto cambiare effettivamente rosso-nero o nero-azzurro, potevamo cambiare sigla, non ci abbiamo pensato. Diceva Castagnier, forse la situazione di Leonardo è diversa, lui è comunque un manager, passa da una squadra all'altra, non è una questione di maglia per l'appunto, e però tra i tifosi c'è un senso così diffuso, un po' almeno di sconcerto. Abbiamo in diretta Loretta da Milano. Loretta, buongiorno. Sì, buongiorno. Milanista, lei si sente tradita? Sì, molto tradita, molto, più di qualsiasi giocatore che fosse passato mai dall'altra parte, più che se dovesse accadere che passasse Kakà, a parte che ha fatto un'altra parentesi. Leonardo, allora, è un mezzo. Ma perché? Perché proprio Leonardo? Perché tanta gente non vuole dire che lui comunque ha dimostrato di essere un romantico, di pensare ad altro, di non pensare solo alla carriera, di non pensare solo a tante altre cose, no? Aveva dei valori, cioè lui ha buttato tutto al vento, e quando sento dire comunque gli addetti ai lavori che insomma che è un professionista, che questo, che quello, lui la cosa è solo una: lui si è voluto vendicare di Berlusconi, e su questo, guardi, sono troppo sicura. Però il Milan non è Berlusconi, il Milan siamo tutti noi, e lui ha perso la faccia assolutamente. Ma questo è un senso, la devo fermare per poter... È stato proprio un brutto gesto, perché avrebbe potuto andare in qualsiasi altra squadra, e invece ha fatto uno smacco, ma lo smacco l'ha fatto a noi, è questo che lui non capisce, e mi dispiace perché una persona intelligente come lui non capire quello che ha fatto a tutti noi. Io grazie grande, Loretta, la devo interrompere perché altrimenti non riusciamo a far intervenire altri ascoltatori, ma è molto chiaro. Si dice sempre che il tifo interista è quello un po' più nervoso, un po' più così. Beccalossi, invece qui abbiamo trovato una milanista di quelle proprio. Milanista, però sto dicendo come faceva anche a dire di no, cioè ragazzi, cioè, è un anno che ha allenato il Milan, poi si è fermato perché è un ragazzo equilibrato, anche un bel ragazzo dopo Mourinho, meno male che arriva uno... Ma tutti belli buono. Li volete all'Inter. Però sto dicendo, come faceva a dire di no? Cioè, c'è anche l'aspetto che ti arriva una possibilità grande, cioè allenare una squadra che è competitiva, che ha vinto tutto, come fai a dire di no? Al di là dell'emozione, dei sentimenti che si può avere nel passato per altre situazioni. Che ne pensate, Filippo Galli e Castagnier? Io capisco il sentimento di Loretta, però... Lei ha detto poi un'altra cosa, Loretta, ha detto una persona intelligente, ecco, nei confronti di Leonardo, una persona intelligente non avrebbe fatto una scelta come quella che ha fatto Leonardo per vendetta contro nessuno. Io sono convinto che non sia una vendetta contro nessun altro, è solo ripeto, un'opportunità di lavoro che è capitata a Leonardo per tante situazioni che si sono venute a trovare, e lui ha accettato, insomma, ecco, io nulla di più. Capisco il sentimento di alcuni tifosi che erano molto legati a Leo, era normale perché proprio era una persona solare, una persona che ha fatto bene qui da noi, però ecco, c'è da capire anche questa sua scelta. Castagnier, proprio la sua opinione su questo punto ce l'ha già detta. Lei ricordava proprio il tipo di ambiente, quello nerazzurro, in un'intervista che ha rilasciato in questi giorni. Diceva senz'altro più nervoso sia nel gioco che in società. Insomma, uno come Leonardo, un po' gandiano, dovrebbe cavarsela alla fine. Sì, è una persona molto intelligente, molto aperta, schietta, e quindi io credo che capace, io penso che farà bene. Cioè, uno non poteva rinunciare a guidare una Ferrari, e praticamente era fermo, era senza lavoro, e gli offrono l'Inter. Insomma, il tradimento sportivo, che poi è il tema che noi abbiamo scelto per questa mattina, forse non esiste più, salvo che per quegli affetti di cui dicevamo prima, magari nei quali si cresce fin da bambini, poi si prosegue all'interno di una squadra, ma per chi non ha questi legami, insomma, passare dall'uno all'altro oggigiorno è normale. Ma io credo che il mondo del calcio adesso sia cambiato completamente. 20-30 anni fa le squadre praticamente erano le stesse, le formazioni erano le stesse, i tifosi si ricordavano la formazione dal portiere al numero 11, allora c'era un cambio prima e due dopo. Adesso in pratica con le nuove norme si cambia una formazione in sei mesi, se i giocatori possono cambiare società, fa parte proprio del nuovo calcio. Adesso purtroppo, insomma, questo è il calcio, purtroppo o per fortuna, non lo so. I nostri ascoltatori dicono anche loro, no, non esiste più il senso del tradimento sportivo, almeno lo dice l'84% di loro. Per qualcuno esiste invece il tradimento sportivo, quindi forse rimane appunto il tifo del cuore, magari come tifoso non si cambia mai squadra, no? Si cambiano più mogli che squadre, ma non si chiede la stessa cosa agli allenatori, ai calciatori. Adesso sì. non ho chiamato uno in particolare, quindi Evaristo Beccalossi, come la vede? Sì. Ma abbiamo parlato, cioè io, allora mettiamo dei paletti, allora giocatori come Totti, come Del Piero, come Maldini, sono legati alla storia, come Filippo stesso che ha fatto una grande carriera nel Milan, e vengono identificati per tutta la vita come uomini Milan. Però poi ci sono altri personaggi. Leonardo sì, ha fatto una cosa importante, un po' delle cose importanti per il Milan, però l'opportunità di lavoro che gli è capitato, e poi è talmente universale che secondo me non c'è nessun problema andare a venire da noi a allenare. Sarebbe forse un problema di sentimento, di tradimenti su certi giocatori che hanno fatto proprio la storia delle proprie squadre. E ho fatto tre nomi che sono tre giganti, Del Piero, Totti e Maldini, insomma. Lì probabilmente sarebbe giusto, perché questi sono nati con le loro maglie e se le portano dietro per tutta la vita. Mentre adesso stiamo parlando di un allenatore, sì, che ha un passato nel Milan, però mi risulta che ha giocato nel Paris Saint-Germain, brasiliano, cioè ha girato il mondo, in Giappone è stato... Cioè, dov'è il problema? Dov'è il problema? Io mi aspetto che mi arrivi e mi metta forse un po' le cosine, perché con Benitez nei primi mesi qualche problemino abbiamo avuto. Ah sì, eh? Sì. E mi concentro per andare a prendere Filippo adesso in testa alla classifica. La sfida diretta lanciata da Radio 24. Ci ricorderemo di questa mattinata insieme, nella quale fu lanciato il guanto. È vero, saluto anche Ilario, che un po' che non lo... Ciao Ilario. Da Juventino vi leggo qualche messaggio. Dico che ognuno è libero di andare dove vuole, poi allenatori e calciatori sono dei professionisti. Però ha sottolineato che comunque lo dice da Juventino, no? Perché c'è quella parte del tifoso che comunque viene fuori. Qualcuno dovrebbe sottolineare la maleducazione del ragazzo, quello che ha detto del passaggio di Leonardo che abbiamo fatto sentire all'inizio della trasmissione. Ragionano con i soldi in tasca, rifiutare è facile, accettare è meno ipocrita. Questo è un po' il polso degli ascoltatori. Filippo Galli, che ne dici? Te l'aspettavi questo, ma, fondamentalmente? Ma sì, ma è chiaro che poi ognuno ha la propria coscienza, le proprie idee, e di conseguenza le esprime. C'è chi è contrario, chi è favorevole, chi è indifferente, come è normale che sia. Io credo che poi chi si trova a dover scegliere in queste situazioni debba poi parlare con la propria coscienza, e io credo che Leonardo lo abbia fatto e quindi abbia deciso di fare questa scelta in tutta tranquillità. È una scelta per lui, ripeto, importante, perché come diceva Castagnier ha avuto la fortuna e la bravura di iniziare una carriera, certo, da allenatore dal Milan. E poi passare all'Inter e poi con la Juventus, tra i più grandi club che ci sono in Italia, non me ne vogliono i tifosi delle altre. Certo. Mentre gli interisti un po' temporeggiano, vedo un altro milanista al telefono, Pietro da Latina. Buongiorno. Buongiorno. Allora, augura a Leonardo di... di finire il campionato che ha finito nel Milan, perdendo le ultime partite decisive. Perché? Perché è così aggressivo nei confronti del povero Leonardo? Ma perché aveva dimostrato una grande fede nel Milan, perché aveva lavorato anche da dirigente nel Milan, e quindi questo passaggio penso che abbia turbato i tifosi forti milanisti. Ma lei lo giustifica con un passaggio per soldi, quindi? No. Perché no, allora? Perché voleva tradire il Milan? Perché poi non ha la fede che dimostravo, che diceva. Quindi per soldi non credo, non è il tipo, però probabilmente il Milan non gli interessa come diceva. Ma non è mica, nel caso non sarebbe mica l'unico. Ibrahimovic dove lo mettiamo? Ma Ibrahimovic è è un guerriero lottatore che girovaga, che ama tutte le squadre in cui si trova, tutte le squadre, non è mai stato più di qualche anno dentro una squadra, non ha mai detto che ama una squadra in maniera viscerale, quindi da Ibra mi aspetto anche che fra 2-3 anni lasci il Milan in tranquillità e vada in un'altra squadra. Leonardo è un po' diverso, penso. La situazione è diversa, va bene. È diversa, sì. Secondo me non c'è dubbio, però gli auguro sempre il meglio. Ecco, è anche quello che ha già detto. La devo chiudere, diciamo così. Ringrazio tutti i nostri ospiti. Ricordo Evaristo Beccalossi, Filippo Galli, Ilario Castagnier. Ringrazio anche Alessandro Longoni in assistenza, Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è a domani.